Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Gioacchin, 2007. Cuore, di Edmondo De Amicis. Marzo. Seconda parte. Lunedì 20. Litigio. Eppure, no, non fu per invidia che gli ebbi avuto il premio ed io no, che mi bisticciai con Coretti questa mattina. Non fu per invidia, ma ebbi torto. Il maestro l'aveva messo accanto a me. Io scrivevo sul mio quaderno di calligrafia. Egli mi urtò col gomito e mi fece fare uno sgorbio e macchiare anche il racconto mensile, sangue romagnolo, che dovevo copiare per il muratorino che è malato. Io m'arrabbiai e gli dissi una parolaccia. Egli mi rispose sorridendo: non l'ho fatto apposta. Avrei dovuto credergli perché lo conosco, ma mi spiacque che sorrise e pensai: oh, adesso che ha avuto il premio sarà montato in superbia. E poco dopo, per vendicarmi, gli diedi un urtone che gli feci sciupare la pagina. Allora, tutto rosso dalla rabbia: tu sì che l'hai fatto apposta, mi disse, e alzò la mano. Il maestro vide, la ritirò, ma aggiunse: t'aspetto fuori. Io rimasi male, la rabbia mi sbollì, mi pentii. No, Coretti, non poteva averlo fatto apposta. È buono, pensai. Mi ricordai di quando l'avevo visto in casa sua, come lavorava, come assisteva sua madre malata. E poi che festa gli avevo fatto in casa mia. E come era piaciuto a mio padre. Quanto avrei dato per non avergli detto quella parola, per non avergli fatto quella villania. E pensavo al consiglio che m'avrebbe dato mio padre. Hai torto? Sì. E allora domandagli scusa. Ma questo io non osavo farlo. Avevo vergogna ad umiliarmi. Lo guardavo di sott'occhio. Vedevo la sua maglia scucita sulla spalla, forse perché aveva portato troppe legna, e sentivo che gli volevo bene e mi dicevo: coraggio! Ma la parola scusami mi restava in gola. Egli mi guardava di traverso di tanto in tanto e mi pareva più addolorato che arrabbiato, ma allora anch'io lo guardavo bieco per mostrargli che non avevo paura. Egli mi ripeté: ci vediamo fuori. Ed io: ci rivedremo fuori. Ma pensavo a quello che mio padre m'aveva detto una volta: se hai torto, difenditi, ma non battere. Ed io dicevo tra me: mi difenderò, ma non batterò. Ma ero scontento, triste. Non sentivo più il maestro. Infine arrivò il momento d'uscire. Quando fui solo nella strada, vidi che egli mi seguitava. Mi fermai e lo aspettai con la riga in mano. Egli s'avvicinò. Io alzai la riga. «No, Enrico», disse egli, col suo buon sorriso, facendo in là la riga con la mano. «Torniamo amici come prima». Io rimasi stupito un momento. E poi sentii come una mano che mi desse uno spintone nelle spalle e mi trovai fra le sue braccia. Egli mi baciò e disse: «Mai più baruffe tra noi, non è vero?» «Mai più, mai più», risposi. E ci separammo contenti. Ma quando arrivai a casa e raccontai tutto a mio padre, credevo di fargli piacere. Egli si rabbuscò e disse: «Dovevi essere tu il primo a tendergli la mano, poiché avevi torto». Poi aggiunse: «Non dovevi alzar la riga sopra un compagno migliore di te, sopra il figliuolo d'un soldato». E strappatami la riga di mano, la fece in due pezzi e la sbatté nel muro. Venerdì 24. Lettera. Mia sorella. Perché Enrico, dopo che nostro padre t'aveva già rimproverato d'esserti portato male con Coretti, hai fatto ancora quello sgarbo a me? Tu non immagini la pena che ho provata. Non sai che quando eri bambino ti stavo per ore ed ore accanto alla culla, invece di divertirmi con le mie compagne, e che quando eri malato scendevo da letto ogni notte per sentire se ti bruciava la fronte? Non lo sai, tu che offendi tua sorella, che se una sventura tremenda ci colpisse, ti farei da madre e ti vorrei bene come un figliuolo? Non sai che quando nostro padre e nostra madre non ci saranno più, io sarò la tua migliore amica, la sola con cui potrai parlare dei nostri morti e della tua infanzia, e che se ci fosse bisogno lavorerei per te, Enrico, per guadagnarti il pane e farti studiare, e che ti amerò anche quando sarai grande, che ti seguirò col mio pensiero, quando sarai lontano, sempre, perché siamo cresciuti insieme e abbiamo lo stesso sangue? Oh, Enrico, stanne pur sicuro, quando sarai un uomo, se t'accadrà una disgrazia, se sarai solo, sta pur sicuro che mi cercherai, che verrai da me a dirmi: Silvia, sorella, lasciami stare con te. Parliamo di quando eravamo felici, ti ricordi? Parliamo di nostra madre, della nostra casa, di quei bei giorni tanto lontani. Oh, Enrico, tu troverai sempre tua sorella con le braccia aperte. Sì, caro Enrico, e perdonami anche il riprovero che ti faccio ora. Io non mi ricorderò di alcun torto tuo, e se tu mi dessi altri dispiaceri, che mi importa? Tu sarai sempre mio fratello lo stesso. Io non mi ricorderò mai d'altro che d'averti tenuto in braccio bambino, d'aver amato padre e madre con te, d'averti visto crescere, di essere stata per tanti anni la tua più fida compagna. Ma tu scrivimi una buona parola sopra questo quaderno e io ripasserò a leggerla prima di sera. Intanto, per mostrarti che non sono in collera con te, vedendo che eri stanco, ho copiato per te il racconto mensile Sangue Romagnolo, che tu dovevi copiare per il muratorino malato. Cercalo nel cassetto di sinistra del tuo tavolino. L'ho scritto questa notte, mentre dormivi. Scrivimi una buona parola, Enrico, te ne prego. Firmato, tua sorella Silvia. Aggiunta, non sono degno di baciarti le mani. Firmato, Enrico. Racconto mensile Sangue Romagnolo. Quella sera la casa di Ferruccio era più quieta del solito. Il padre, che teneva una piccola bottega di merciaiolo, era andato a Forlì a fare delle compere e sua moglie l'aveva accompagnato con Luigina, una bimba, per portarla da un medico che doveva operarle un occhio malato. E non dovevano rientrare che la mattina dopo. Mancava poco alla mezzanotte. La donna che veniva a far dei servizi di giorno se n'era andata sull'imbrunire. In casa non rimaneva che la nonna, paralitica delle gambe, e Ferruccio, un ragazzo di 13 anni. Era una casetta col solo piano terreno, posta sullo stradone, a un tiro di fucile da un villaggio, poco lontano da Forlì, città della Romagna. E non aveva accanto che una casa disabitata, rovinata 2 mesi innanzi da un incendio, sulla quale si vedeva ancora l'insegna d'un'osteria. Dietro la casetta c'era un piccolo orto circondato da una siepe, sul quale stava una porticina rustica. La porta della bottega, che serviva anche da porta di casa, s'apriva sullo stradone. Tutt'intorno si stendeva la campagna solitaria, vasti campi lavorati, piantati di gelsi. Mancava poco alla mezzanotte. Pioveva, tirava vento. Ferruccio e la nonna, ancora levati, stavano nella stanza da mangiare, tra la quale e l'orto c'era uno stanzino ingombro di mobili vecchi. Ferruccio non era rientrato in casa che alle 11, dopo una scappata di molte ore, e la nonna l'aveva aspettato a occhi aperti, piena d'ansietà, inchiodata sopra un largo seggiolone a bracciuoli, sul quale soleva passar tutta la giornata e spesso anche l'intera notte, poiché un'oppressione di respiro non la lasciava star coricata. Pioveva e il vento sbatteva la pioggia contro le vetrate. La notte era oscurissima. Ferruccio era rientrato stanco, infangato, con la giacchetta lacera e col livido d'una sassata sulla fronte. Aveva fatto la sassaiola coi compagni. Eran venuti alle mani, secondo il solito, e per giunta aveva giocato e perduto tutti i suoi soldi e lasciato il berretto in un fosso. Benché la cucina non fosse rischiarata che da una piccola lucerna a olio posta sull'angolo d'un tavolo accanto al seggiolone, pure la povera nonna aveva visto subito in che stato miserando si trovava il nipote e in parte aveva indovinato, in parte gli aveva fatto confessare le sue scapestrerie. Essa amava con tutta l'anima quel ragazzo. Quando seppe ogni cosa, si mise a piangere. «Ah, no!» disse poi, dopo un lungo silenzio. «Tu non hai cuore per la tua povera nonna. Non hai cuore a profittare in codesto modo dell'assenza di tuo padre e tua madre per darmi dei dolori. Tutto il giorno m'hai lasciata sola. Non hai avuto un po' di compassione. Bada, Ferruccio. Tu ti metti per una cattiva strada che ti condurrà a una trista fine. Ne ho visto degli altri cominciar come te e andare a finir male. Si comincia a scappar di casa, ad attaccar lite con gli altri ragazzi, a prendere i soldi, poi, a poco, dalle sassate si passa alle coltellate, dal gioco agli altri vizi, e dai vizi al furto». Ferruccio stava ad ascoltare, ritto a 3 passi di distanza, appoggiato a una dispensa, col mento sul petto, con le sopracciglia aggrottate, ancora tutto caldo dell'ira della rissa. Aveva una ciocca di bei capelli castani attraverso alla fronte e gli occhi azzurri immobili. «Dal gioco al furto», ripeté la nonna, continuando a piangere. «Pensaci, Ferruccio. Pensa a quel malanno qui del paese, a quel Vito Mozzoni, che ora è in città a fare il vagabondo, che a 24 ore è stato 2 volte in prigione e ha fatto morire di crepacuore quella povera donna di sua madre, che io conoscevo, e suo padre è fuggito in Svizzera per disperazione. Pensa a quel triste soggetto, che tuo padre si vergogna di rendergli il saluto, sempre in giro con degli scellerati peggio di lui, fino al giorno che cascherà in galera. Ebbene, io l'ho conosciuto da ragazzo, ha cominciato come te. Pensa che ridurrai tuo padre e tua madre a far la stessa fine dei suoi». Ferruccio taceva. Egli non era mica tristo di cuore, tutt'altro. La sua scapestrataggine derivava piuttosto da sovrabbondanza di vita e da audacia che da malanimo, e suo padre l'aveva avvezzato male appunto per questo, che ritenendolo capace, in fondo, dei sentimenti più belli ed anche messo a una prova d'un'azione forte e generosa, gli lasciava la briglia sul collo e aspettava che mettesse giudizio da sé. Buono era, piuttosto che tristo, ma caparbio e difficile molto, anche quando aveva il cuore stretto dal pentimento, a lasciarsi sfuggire dalla bocca quelle buone parole che ci fanno perdonare. «Sì, ho torto, non lo farò più, te lo prometto, perdonami». Aveva l'anima piena di tristezza alle volte, ma l'orgoglio non la lasciava uscire. «Ah, Ferruccio», continuò la nonna, vedendolo così muto, «non una parola di pentimento mi dici. Tu vedi in che stato mi sono ridotta, che mi potrebbero sotterrare. Non dovresti aver cuore di farmi soffrire, di far piangere la mamma della tua mamma, così vecchia, vicina al suo ultimo giorno. La tua povera nonna, che t'ha sempre voluto tanto bene, che ti cullava per notti e notti intere quando eri bimbo di pochi mesi, e che non mangiava per baloccarti, che tu non sai. Io dicevo sempre, questa sarà la mia consolazione, e ora tu mi fai morire. Io darei volentieri questo po' di vita che mi resta, per vederti tornar buono, obbediente, come a quei giorni, quando ti conducevo al santuario. Ti ricordi, Ferruccio, che mi empivi le tasche di sassolini ed erbe e io ti riportavo a casa in braccio, addormentato? Allora volevi bene alla tua povera nonna e ora che sono paralitica e avrei bisogno della tua affezione, come l'aria per respirare, perché non ho più altro al mondo, povera donna mezza morta che sono, Dio mio!» Ferruccio stava per lanciarsi verso la nonna, vinto dalla commozione, quando gli parve di sentire un rumore leggero, uno scricchiolio nello stanzino accanto, quello che dava sull'orto, ma non capì se fossero le imposte scosse dal vento o altro. Tese l'orecchio. La pioggia scrosciava. Il rumore si ripeté. La nonna lo sentì pure. «Cos'è?» domandò la nonna dopo un momento, turbata. «La pioggia», mormorò il ragazzo. «Dunque, Ferruccio», disse la vecchia, asciugandosi gli occhi, «me lo prometti che sarai buono, che non farai mai più piangere la tua povera nonna?» Un nuovo rumore, leggero, la interruppe. «Ma non mi pare la pioggia», esclamò impallidendo. «Va a vedere». Ma soggiunse subito, «No, resta qui», e afferrò Ferruccio per una mano. Rimasero tutti e due col respiro sospeso. Non sentivan che il rumore dell'acqua. Poi tutti e due ebbero un brivido. All'uno e all'altra era parso di sentire uno stropiccio di piedi nello stanzino. «Chi c'è?» domandò il ragazzo, raccogliendo il fiato a fatica. Nessuno rispose. «Chi c'è?» domandò Ferruccio, agghiacciato dalla paura. Ma avevano appena pronunciate quelle parole che tutte e due gettarono un grido di terrore. Due uomini erano balzati nella stanza. L'uno afferrò il ragazzo e gli cacciò una mano sulla bocca. L'altro strinse la vecchia alla gola. Il primo disse: «Zitto se non vuoi morire». Il secondo: «Taci!» e levò un coltello. L'uno e l'altro avevano una pezzuola scura sul viso, con due buchi davanti agli occhi. Per un momento non si sentì altro che il respiro di tutti e quattro e lo scrosciar della pioggia. La vecchia metteva dei rantoli fitti e aveva gli occhi fuor del capo. Quello che teneva il ragazzo gli disse nell'orecchio: «Dove tieni i denari, tuo padre?» Il ragazzo rispose con un fil di voce, battendo i denti: «Di là, nell'armadio». «Vieni con me», disse l'uomo, e lo trascinò nello stanzino, tenendolo stretto alla gola. Là c'era una lanterna cieca sul pavimento. «Dov'è l'armadio?» domandò. Il ragazzo, soffocato, accennò l'armadio. Allora, per esser sicuro del ragazzo, l'uomo lo gettò in ginocchio davanti all'armadio e, serrandogli forte il collo fra le proprie gambe, in modo da poterlo strozzare se urlava, e tenendo il coltello fra i denti e la lanterna da una mano, cavò di tasca con l'altra un ferro acuminato, lo ficcò nella serratura, frugò, ruppe, spalancò i battenti, rimescolò in furia ogni cosa, s'empì le tasche, richiuse, tornò ad aprire, rifrugò, poi riafferrò il ragazzo alla strozza e lo risospinse di là, dove l'altro teneva ancora agguantata la vecchia, convulsa, col capo arrovesciato e la bocca aperta. Costui domandò a bassa voce: «Trovato?» Il compagno rispose: «Trovato», e soggiunse: «Guarda all'uscio». Quello che teneva la vecchia corse alla porta dell'orto a vedere se c'era nessuno e disse dallo stanzino, con una voce che parve un fischio: «Vieni!» Quello che era rimasto e che teneva ancora Ferruccio mostrò il coltello al ragazzo e alla vecchia, che riapriva gli occhi e disse: «Non una voce, o torno indietro e vi sgozzo!» E li fissò un momento tutti e due. In quel punto si sentì lontano, per lo stradone, un canto di molte voci. Il ladro voltò rapidamente il capo verso l'uscio e in quel moto violento gli cadde la pezzuola dal viso. La vecchia gettò un urlo: «Mozzoni!» «Maledetta!» ruggì il ladro riconosciuto. «Devi morire!» E si avventò a coltello alzato contro la vecchia, che svenne sull'atto. L'assassino menò il colpo, ma con un movimento rapidissimo, gettando un grito disperato, Ferruccio s'era lanciato sulla nonna e l'aveva coperta col proprio corpo. L'assassino fuggì, urtando il tavolo e rovesciando il lume, che si spense. Il ragazzo scivolò lentamente di sopra la nonna e cadde in ginocchio e rimase in quell'atteggiamento, con le braccia intorno alla vita di lei e il capo sul suo seno. Qualche momento passò. Era buio fitto. Il canto dei contadini s'andava allontanando per la campagna. La vecchia rinvenne. «Ferruccio!» chiamò con una voce appena intelligibile, battendo i denti. «Nonna!» rispose il ragazzo. La vecchia fece uno sforzo per parlare, ma il terrore la paralizzava la lingua. Stette un pezzo in silenzio, tremando violentemente. Poi riuscì a domandare: «Non ci son più?» «No», Non m'hanno uccisa, mormorò la vecchia con voce soffocata. No, siete salva, disse Ferruccio con voce fioca. Siete salva, cara nonna. Hanno portato via dei denari, ma il babbo aveva preso quasi tutto con sé. La nonna mise un respiro. Nonna, disse Ferruccio, sempre in ginocchio, stringendola alla vita. Cara nonna, mi volete bene, non è vero? Oh, Ferruccio, povero figliuol mio, rispose quella, mettendogli le mani sul capo. Che spavento devi aver avuto. Oh, Signore Dio misericordioso, accendi un po' il lume. No, restiamo al buio, ho ancora paura. Nonna, riprese il ragazzo, io v'ho sempre dato dei dispiaceri. No, Ferruccio, non dir queste cose. Io non ci penso più, ho scordato tutto. Ti voglio tanto bene. V'ho sempre dato dei dispiaceri, continuò Ferruccio, a stento, con la voce tremola. Ma vi ho sempre voluto bene. Mi perdonate? Perdonatemi, nonna. Sì, figliuolo, ti perdono con tutto il cuore. Pensa un po' se non ti perdono. Levati d'in ginocchio, bambino mio. Non ti sgriderò mai più. Sei buono, sei tanto buono. Accendiamo il lume. Facciamoci un po' di coraggio. Alzati, Ferruccio. Grazie, nonna, disse il ragazzo con la voce sempre più debole. Ora sono contento. Vi ricorderete di me, nonna, non è vero? Vi ricorderete sempre di me, del vostro Ferruccio. Ferruccio mio! Esclamò la nonna, stupita e inquieta, mettendogli le mani sulle spalle e chinando il capo, come per guardarlo nel viso. Ricordatevi di me, mormorò ancora il ragazzo, con una voce che pareva un soffio. Date un bacio a mia madre, a mio padre, a Luigina. Addio, nonna. In nome del cielo, cos'hai? Gridò la vecchia, palpando affannosamente il capo del ragazzo che le si era abbandonato sulle ginocchia. E poi, con quanta voce aveva in gola, disperatamente, Ferruccio! Ferruccio! Ferruccio! Bambino mio! Amor mio! Angeli del paradiso, aiutatemi! Ma Ferruccio non rispose più. Il piccolo eroe, il salvatore della madre di sua madre, colpito da una coltellata nel dorso, aveva reso la bella e ardita anima a Dio. Martedì 28. Il muratorino moribondo. Il povero muratorino è malato grave. Il maestro ci disse d'andarlo a vedere. E combinammo d'andarci insieme Garrone, De Rossi ed io. Stardi pure sarebbe venuto, ma siccome il maestro ci diede per lavoro la descrizione del monumento a Cavour, egli ci disse che doveva andare a vedere il monumento per far la descrizione più esatta. Così per prova invitammo anche quel gonfianaccio di Nobis, che ci rispose no, senz'altro. Votini poi si scusò, forse per paura di macchiarsi il vestito di calcina. Ci andammo all'uscita delle quattro. Pioveva a catinelle. Per la strada Garrone si fermò e disse, con la bocca piena di pane, «Cosa si compra?» E faceva suonare due soldi nella tasca. Mettemmo due soldi ciascuno e comperammo tre arance grosse. Salimmo alla soffitta. Davanti all'uscio De Rossi si levò la medaglia e se la mise in tasca. Gli domandai perché. «Non so», rispose. «Per non aver l'aria. Mi par più delicato entrare senza medaglia». Picchiammo. Ci aperse il padre, quell'omone che pare un gigante. Aveva la faccia stravolta, che pareva spaventato. «Chi siete?» domandò. Garrone rispose. «Siamo compagni di scuola d'Antonio, che gli portiamo tre arance». «Ah, povero Tonino!» esclamò il muratore scotendo il capo. «Ho paura che non le mangerà più le vostre arance!» E si asciugò gli occhi col rovescio della mano. Ci fece andare avanti. Entrammo in una camera a letto, dove vedemmo il muratorino che dormiva in un piccolo letto di ferro. Sua madre stava abbandonata sul letto, col viso nelle mani, e si voltò appena a guardarci. Da una parte pendevano dei pennelli, un piccone e un crivello di calcina. Sui piedi del malato era distesa la giacchetta del muratore, bianca di gesso. Il povero ragazzo era smagrito, bianco bianco, col naso affilato e respirava corto. Oh, caro Tonino, tanto buono e allegro, piccolo compagno mio, come mi faceva pena, quanto avrei dato per vedergli fare il muso di lepre, povero muratorino. Garrone gli mise un'arancia sul cuscino, accanto al viso. L'odore lo svegliò, la pigliò subito, ma poi la lasciò andare e guardò fisso Garrone. «Son io», disse questi. «Garrone, mi conosci?» Egli fece un sorriso che si vide appena e levò a stento dal letto la sua mano corta e la porse a Garrone, che la prese fra le sue e vi appoggiò sopra la guancia dicendo: «Coraggio, coraggio, muratorino! Tu guarirai presto e tornerai alla scuola e il maestro ti metterà vicino a me. Sei contento?» Ma il muratorino non rispose. La madre scoppiò in singhiozzi. «Oh, il mio povero Tonino, così bravo e buono, ed io che ce lo vuol prendere!» «Chetati!» le gridò il muratore disperato. «Chetati, per amor di Dio, o perdo la testa!» Poi disse a noi affannosamente: «Andate, andate, ragazzi! Grazie, andate! Che volete far qui? Grazie, andatevene a casa!» Il ragazzo aveva richiuso gli occhi e pareva morto. «Ha bisogno di qualche servizio?» domandò Garrone. «No, buon figliuolo, grazie», rispose il muratore. «Andatevene a casa!» E così dicendo ci spinse sul pianerottolo e richiuse l'uscio. Ma non eravamo a metà delle scale che lo sentimmo gridare: «Garrone! Garrone!» Risalimmo in fretta tutti e tre. «Garrone!» gridò il muratore con viso mutato. «T'ha chiamato per nome! 2 giorni che non parlava! T'ha chiamato 2 volte! Vuole te! Vieni subito! Ah, santo Dio, se fosse il buon segno!» «Arrivederci», disse Garrone a noi. «Io rimango». E si lanciò in casa col padre. De Rossi aveva gli occhi pieni di lacrime. Io gli dissi: «Piangi per il muratorino?» «Egli ha parlato. Guarirà». «Lo credo», rispose De Rossi. «Ma non pensavo a lui. Pensavo com'è buono. Che anima bella è Garrone!» Mercoledì 29. Lettera. Il conte di Cavour. È la descrizione del monumento al conte Cavour che tu devi fare. Puoi farla. Ma chi sia stato il conte di Cavour non lo puoi capire per ora. Per ora sappi questo soltanto. Egli fu per molti anni il primo ministro del Piemonte. È lui che mandò l'esercito piemontese in Crimea a rialzare con la vittoria della Cernaia la nostra gloria militare caduta con la sconfitta di Novara. È lui che fece calare dalle Alpi 150.000 francesi a cacciare gli austriaci dalla Lombardia. È lui che governò l'Italia nel periodo più solenne della nostra rivoluzione, che diede in quegli anni il più potente impulso alla santa impresa dell'unificazione della patria. Lui, con l'ingegno luminoso, con la costanza invincibile, con l'operosità più che umana. Molti generali passarono ore terribili sul campo di battaglia, ma egli ne passò di più terribili nel suo gabinetto, quando l'enorme opera sua poteva rovinare di momento in momento, come un fragile edificio a un crollo di terremoto. Ore, notti di lotta ed angoscia passò, da uscirne con la ragione stravolta o con la morte nel cuore. E fu questo gigantesco e tempestoso lavoro che gli accorciò di 20 anni la vita. Eppure, divorato dalla febbre che doveva gettar nella fossa, egli lottava ancora disperatamente con la malattia per far qualche cosa per il suo paese. «È strano», diceva con dolore dal suo letto di morte. «Non so più leggere, non so più leggere!» Mentre gli cavavan sangue e la febbre aumentava, pensava alla sua patria, diceva imperiosamente: «Guaritemi! La mia mente s'oscura, ho bisogno di tutte le mie facoltà per trattare dei gravi affari!» Quando era già ridotto agli estremi e tutta la città s'agitava e il re stava al suo capezzale, egli diceva con affanno: «Ho molte cose da dirvi, sire, molte cose da farvi vedere, ma son malato, non posso, non posso!» E si desolava. E sempre il pensiero febbrile rivolava allo Stato, alle nuove province italiane che s'erano unite a noi, alle tante altre che rimanevan da farsi. Quando lo prese il delirio, «Educate l'infanzia!» esclamava fra gli aneliti. «Educate l'infanzia e la gioventù! Governate con la libertà!» Il delirio cresceva, la morte gli era sopra ed egli invocava con parole ardenti il generale Garibaldi, col quale aveva avuto dei dissensi a Venezia e Roma, che non era ancora libere. Aveva delle vaste visioni dell'avvenire d'Italia e d'Europa. Sognava un'invasione straniera, domandava dove fossero i corpi dell'esercito e i generali. Trepidava ancora per noi, per il suo popolo. Il suo grande dolore, capisci, non era di sentirsi mancare la vita, era di vedersi sfuggire la patria, che aveva ancora bisogno di lui e per la quale aveva logorato in pochi anni le forze smisurate del suo miracoloso organismo. Morì col grido della battaglia nella gola e la sua morte fu grande come la sua vita. Ora pensa un poco, Enrico, che cosa è il nostro lavoro, che pure ci pesa tanto, che cosa sono i nostri dolori, la nostra morte stessa, a confronto delle fatiche, degli affanni formidabili, delle agonie tremende di quegli uomini a cui pesa un mondo sul cuore. Pensa a questo, figliuolo, quando passi davanti a quell'immagine di marmo e dille gloria in cuor tuo. Firmato tuo padre. Fine del mese di marzo.